Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 9 febbraio 2015. Spazio. L'eco lanciatore europeo Vega sta facendo scuola. A 3 anni dalla prima partenza da Kourou, il razzo europeo Vega ha oramai aperto una strada nuova, quella delle tecnologie spaziali più attente all'ambiente. Complice la crisi economica e le preoccupazioni per la produzione di CO2, anche Cina, Stati Uniti e Russia si stanno adeguando alla strada intrapresa dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, che ha puntato da tempo sulla riduzione tanto dell'impronta carbonica quanto sulla limitazione dei rifiuti spaziali. Fin qui la notizia del 9 febbraio 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente in questo 2012. Sabato 11 febbraio dalla Guyana francese sarà lanciato per la prima volta Vega, il vettore spaziale europeo di nuova generazione. Vega è il primo lanciatore progettato e sviluppato in Italia nell'ambito del programma spaziale ESA-ASI. Il progetto è stato coordinato da Avio tramite la sua controllata ELV e ha coinvolto 40 aziende di 12 paesi. Tra i punti di forza di Vega c'è l'attenzione alle tematiche ambientali, come spiega Pier Giuliano Lasagni, Senior Vice President della Divisione Spazio di Avio. In tutte le nostre attività, della nostra società Avio, il discorso dell'ambiente sta diventando un leitmotiv, per cui quotidianamente insomma ci pone di fronte alle domande: cosa facciamo next? Lo stadio alto di solito utilizza motori ad alto contenuto energetico. Ci siamo resi conto che dal punto di vista puramente diciamo ecologico e energetico, il motore criogenico che utilizzi l'ossigeno liquido e il metano liquido è sicuramente quello che ha meno impatto nell'ambiente. Mi pare che ci sia anche un altro aspetto, cioè la possibilità di recuperare l'ultimo stadio, che di solito non è automatica, molto spesso questo rimane in orbita. Oggi noi ci poniamo su Vega del primo vettore che si pone il problema di non lasciare in orbita un elemento che diventa praticamente un grosso detrito spaziale, quindi in orbita si lascia il satellite perché deve operare una certa missione, ma diciamo lo stadio che ha accompagnato nella sua ultima fase il satellite viene fatto rientrare nell'atmosfera. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anarita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.